piuma al vento, muta d'accento, e di pensiero, sempre un mobile leggiadro viso, il pianto in riso, e menzognero, la donna e voffi, qual piuma al vento, muta la gioia. Oh!